America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Oggi continueremo a parlare di elezioni. Consentitemi una libertà, mi permetto di contraddire l'Economist, oibò direte voi, l'Economist, uno dei più prestigiosi magazine del mondo. Ebbene, la mia critica sta nella copertina di ieri dell'Economist, perché con le elezioni appunto di martedì, secondo questo autorevolissimo magazine inglese, gli americani sono arrabbiati, angry America, dice la copertina dell'Economist. Ecco, io sono reduce da un viaggio che ho fatto per il Wisconsin, per l'Ohio, per il Colorado, diciamo un viaggio per la grande America, dove sono andato a cercare i cosiddetti country boys. When the work's all done and the sun set low, pull out the fiddle and you're crossing up the bow. Kids are all asleep, so I keep the cattle low. And thank God I'm a country boy. Da questo viaggio ho avuto l'impressione che gli americani sono più preoccupati, rassegnati che arrabbiati, e forse è persino peggio che siano preoccupati o rassegnati più che arrabbiati. E devo dire, l'ho capito alla fine di questo viaggio in diagonale, perché sono partito dal Colorado, poi sono risalito lungo il Wisconsin e poi sono arrivato all'Ohio, grandi montagne, grandi pianure, insomma quell'America un po' nascosta, il Heartland americano. E ho fatto questo giro per capire dove fosse finita la speranza, il yes we can, che erano i termini che solo due anni fa dominavano nella campagna elettorale per la Casa Bianca e hanno poi catapultato Barack Obama alla presidenza. Questo viaggio che ho fatto per scelta è stato lontano dalle manifestazioni dei Tea Parties, dal clamore dei comizi organizzati nella campagna elettorale, e così viaggiando per questa America mi sono accorto che dietro queste interminabili porte, finestre murate, ad esempio, che ho visto alle periferie di Milwaukee, c'è più ansia che rabbia, ed è un denominatore comune, Colorado, Ohio, Wisconsin, altri stati che lega l'America, anche se ci sono poi dietro condizioni molto diverse. E per esempio questa stessa atmosfera, questo stesso umore un po' rinunciatario l'ho ritrovato sulla Interstate 25, che è un'autostrada che va da Denver a Colorado Springs. All'uscita circa 310 c'era questo villaggio perfetto, nuovo di zecca, che era fatto però poi di centinaia di case vuote. Questa atmosfera l'abbiamo poi ritrovata nelle scuole americane, di nuovo non Yale, Harvard, Princeton, Stanford, insomma non le grandi universities, ma i piccoli college, le piccole università americane, che poi con milioni di studenti rappresentano la vera spina dorsale di questo paese. Allora, in questo giro mi è capitato di incontrare Harry, per esempio, che è un freshman, una matricola all'Università del Wisconsin, a Madison, che per voi è sconosciuta, ma di fatto poi è una città universitaria, ci sono state 25.000 matricole. E questo Harry, che mi ha colpito più di altri, così tipico ragazzo americano, ciuffo biondo, pelle lentigginosa, ha scelto fisica, ha avuto la fortuna di essere uno dei 104 studenti del college ammessi a questo semestre per partecipare in un progetto che studia, sperimenta su un piccolo reattore nucleare, devo dire un impianto invidiabile, non so quante delle nostre università ce l'hanno. E poi però ecco la rivelazione, perché dice: beh, da una parte sì, ho avuto questa chance, studio con studenti che sono più avanti di me, questo è eccitante. Il problema poi dice che questi studenti più anziani mi dicono che loro ci sono già passati, che non c'è lavoro e che me lo posso sognare, e non mi stanno prendendo in giro, insomma hanno l'aria seria di quelli che ti dicono che il futuro non è facile. Ecco, lo stesso ho visto in altre università, a Oberlin per esempio, dove c'era una ragazza che studiava il violino, è rassegnata anche lei, dice: ma non sarò mai concertista, dice, la concorrenza arriva dall'Asia, sono musicisti molto più bravi, dice, altro che settore manifatturiero e disoccupazione così di lavoratori, di operai, qua dall'Asia ci arriva anche una attacco per la disoccupazione intellettuale. Oppure il signor Ramirez, il cui figlio, questo a Colorado Springs, a Colorado College, questo signore dice: ma sì, mio figlio si è laureato, adesso partecipa alla campagna elettorale del senatore Bennett, speriamo che vinca perché in quel modo potrà andare a Washington. Allora mi sono fatto questa idea che in questo giro alla fine ho incontrato quella che secondo me è una generazione perduta, che per la prima volta nella storia americana guarda al futuro senza la certezza di un lavoro e con una preoccupazione, torno a dire, non rabbia, la preoccupazione che lo spirito americano si sia appassito. Claudio Gatti, che con me qui ai microfoni di America 24, è stato invece nel New Hampshire, nel Northeast, che una volta era la roccaforte del Partito Democratico. Oggi, Claudio, mi sembra lo sia un po' meno. Diciamo offre meno certezze di una volta. Le ultime due tornate elettorali, 2006-2008, tutta la fascia del nord-est fino al Maine ha votato democratico. Adesso sembra invece che ci saranno alcuni seggi in cui i repubblicani potrebbero vincere, incluso uno stato come il Massachusetts. Ecco, io in questo giro che ho fatto nell'America, diciamo, centrale, ho raccolto così un umore un po' rassegnato. Più che arrabbiato, un umore di cambiamento che non sa bene dove porta il paese. Ecco, lo stesso vale in New Hampshire, nel nord-est, nel New England? Il New Hampshire, devo dire, è uno stato in cui l'economia sta molto meglio che nel resto del paese. La disoccupazione, il tasso al 5,5, quindi poco più della metà della media nazionale. Quindi lì non si sente, non si vede la rabbia di cui si legge legata al famoso movimento dei Tea Party. Ecco, Claudio, che cosa ti ha colpito di questo tuo viaggio nel New England? Ma direi soprattutto il fatto che l'impegno, l'interesse, la partecipazione per questa tornata elettorale mi pareva molto limitato. Parlando con le persone e camminando per le strade di Manchester o Concord, era difficile trovare persone che avessero un'opinione netta e precisa. C'era un atteggiamento generalmente negativo, ma poca passione. Anche nel New England, dunque, più rinunciatari che arrabbiati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di viaggi in America, abbiamo parlato di strade di campagna, abbiamo parlato di movimenti per cercare di capire che cosa sta succedendo in questo paese. Dunque, Willie Nelson, grande cantante country americano, vi proponiamo On the Road Again, di nuovo in movimento. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. Can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.